ritorniamo di nuovo questa mattina sull'argomento dei robot. L'abbiamo cominciato venerdì scorso, vi abbiamo già raccontato qualcosa di questo mondo, abbiamo parlato dell'immaginario fantascientifico che si lega al nostro rapporto con i robot, il nostro desiderio di avere un altro come noi, costruito da noi, che insomma in alcuni casi affascina, in alcuni casi fa paura. E insieme a me ad affrontare questo viaggio robotico, Marco e Marco. Buongiorno a tutti. Marco Boscolo con questa fantastica voce robotica, dall'altra parte del vetro Marco Guglielmino, buongiorno. Buongiorno Damiana e buongiorno Marco. E allora entriamo direttamente in questa questa ambientazione robotica. Marco, con questa vocina ti hai fatto entrare veramente nello spirito, un desiderio quello di avere un robot di fianco. Assolutamente un desiderio, soprattutto per fare tutte quelle cose noiose che dobbiamo fare nella nostra vita quotidiana, per esempio spedire quelle 800 email al giorno di lavoro che sono semplicemente così vita quotidiana senza nessun contenuto vero e proprio, oppure portare giù la spazzatura, per esempio, cose noiose che devi fare in ciabatte alle 8 di sera. Ecco, magari per queste cose un robot non farebbe male. L'altra volta avevamo mandato il Rock and Roll Robot di la canzone che ben descrive questo rapporto che vorremmo con i robot, insomma questo oggetto che fa le cose che non vorremmo fare noi, magari ci fa anche un po' compagnia. Ci fa anche un po' compagnia, però per esempio potrebbe rispondere anche al telefono quando telefona la suocera, potrebbe fare tutta una serie di cose per le quali noi non siamo molto ben disposti d'animo, insomma essere allegro quando noi siamo tristi, essere tristi quando noi siamo allegri. Attenzione che poi i robot però si arrabbiano, insomma la paura poi della fantascienza è quella che a forza di fargli fare le cose che noi non vogliamo fare, poi i robot si arrabbiano. Insomma, di esempi del genere ce n'è pieno il mondo cinematografico. Blade Runner, abbiamo riportato l'altra volta il fantastico monologo in cui uno dice sì, io ne ho viste cose che voi umani. Anche per esempio il iRobot con Will Smith, in cui c'è addirittura questo robot che diventa un assassino, ma inconsapevole. Questa è la cosa interessante, perché essendo un robot non si rende conto nemmeno di aver violato le tre leggi della robotica inventate da Asimov per garantire una perfetta convivenza tra esseri umani e robot. E invece se i robot avessero una scelta, vediamo, visto che stiamo parlando proprio di questo argomento, ancora prima del nostro Glossatech, che sentiamo invece un caso di un cartone animato che racconta proprio la scelta di un robot che insomma non vuole più fare la macchina da guerra. Generale Rogar, preparatevi all'attacco nucleare e a ripiegare prontamente. No! No, aspetta! Sono io, Hogarth! Ti ricordi? È sbagliato uccidere! Le armi uccidono! E tu non sei obbligato ad essere un'arma! Tu sei chi scegli e cerchi di essere! Scegli tu! Veramente struggente. No, scusate, scegli di essere. Scusate, ho ancora le lacrime. Tu non sei un'arma, ricordiamolo. Tu non sei un'arma. Questa però è effettivamente è proprio il dilemma che nella fantascienza emerge spesso quando si parla di robot, il fatto che i robot vengono costruiti talvolta, come per esempio in tutte le saghe robotiche di giapponesi, pensate a Mazinga Z, Jigoro Bodachai, tutti robot che servono per essere in qualche modo armi da guerra. In questo caso invece quello che abbiamo sentito è il gigante di ferro, che invece non vuole più essere una macchina da guerra e quindi ha di fronte a sé per la prima volta la scelta di essere qualcos'altro. Chissà cosa pensano i nostri ascoltatori del robot, se si fidano dei robot. Allora noi vi lasciamo i nostri contatti, l'SMS è il 348 7649 289, la mail è diretta @radiocittadecapo.it. Non dimentichiamo anche i nostri contatti sui social network, e allora su Facebook la pagina di Radio Città del Capo e su Twitter il nostro @ Pensatech con il CH. Ma abbiamo già atteso troppo tempo, è il momento del nostro Glossatech. robot. Robot o robot? Entrambe le pronunce sono ammesse, anche se l'etimologia della parola farebbe propendere per robot. Infatti, robot deriva dalla lingua ceca, in particolare dalla parola robota, che significa lavoro pesante o forzato. Il termine robot divenne popolare negli anni 20 del Novecento, grazie al dramma teatrale dal titolo I robot universali di Rossum, scritto da Karel Čapek. Per robot intendiamo una macchina in grado di compiere un lavoro in maniera autonoma o sotto la supervisione umana. I robot sono ampiamente usati nell'industria, ad esempio in quella automobilistica e manufatturiera, ma anche nel settore della difesa e in quello agricolo e zootecnico. L'Italia è il terzo mercato al mondo come diffusione di robot per numero di addetti, mentre al primo posto c'è il Giappone. Tra i robot più utilizzati nell'industria vi sono quelli che riproducono i movimenti del braccio umano, svolgono compiti di alta precisione molto velocemente o mansioni ad alto rischio per l'uomo. Altri tipi di robot sono quelli che riproducono le sembianze umane e sono anche detti androidi. La robotica sta compiendo grandi progressi nella produzione di androidi sempre più sofisticati e in grado di interagire con l'uomo. Ma qui entrano in gioco altri elementi che possono decretarne il successo o il fallimento. Ad esempio il livello di accettazione delle persone. L'attitudine delle persone nei confronti dei robot cambia da paese a paese. Il Giappone, ad esempio, è tra i più pronti ad accoglierli all'interno delle mura domestiche. I cittadini europei, come emerge da un'indagine della Commissione europea del 2012, seppur favorevoli all'uso dei robot in ambito professionale, sono molto più riluttanti a un loro ingresso in famiglia. La prospettiva che un robot possa accudire i figli o gli anziani o portare a passeggio il cane non è in genere per niente gradita ai cittadini europei. Eva, direttiva? Riservata. Nome? Wallis. E abbiamo sentito queste vocette molto tenere, direi, di Wally e di Ivy che si presentavano. Oh, ma siamo proprio dei teneroni stamattina, nonostante stiamo parlando di robot che ci fanno pensare a circuiti elettrici, meccanismi, in realtà siamo teneroni, prima il gigante di ferro e poi anche Eve e Wally. Stiamo un po' introducendo l'emozione del robot, no, alla fine. L'emozione del robot, chissà che emozioni hanno i robot, questi che lavorano nell'industria, insomma, chissà se ci sarà un sindacato dei robot. Un sindacato dei robot, infatti ne parlavamo prima, se qualcuno di voi ha visto gli Animatrix, lì addirittura si parla di secondo rinascimento, quando i robot cominciano a protestare per le loro condizioni di lavoro e l'errore degli esseri umani che porterà poi al Matrix è stato quello di non ascoltare le loro rivendicazioni, le loro proteste, anzi direi proprio direttamente soffocarle con la repressione. Ma tornando a parlare di robot e sentimenti, io entrerei proprio direttamente a questo punto nel vivo del tema e andiamo a parlare di roboetica. Questa parola, un neologismo direi direttamente. Neologismo che fonde appunto robot con etica, chissà quali saranno le riflessioni che si possono fare su quello che è etico nei confronti di ciò che è una macchina costruita dall'uomo e quali sono le emergenze anche filosofiche, mi verrebbe da dire, che nascono da questa situazione in cui i robot diventano effettivamente parte sempre più presente della nostra vita quotidiana. E noi chi siamo andati a sentire per parlarci di roboetica? Allora, siamo andati a sentire Emanuele Micheli, che è della scuola di roboetica, della scuola di robotica, ma anche un esperto di roboetica. Allora, siamo andati a chiedere proprio a lui che cos'è la roboetica. La roboetica è una disciplina nata all'incirca nell'anno 2000, grazie all'opera di ingegneri e filosofi che si sono domandati come poter capire quali sono appunto le conseguenze etiche, sociali e legali dell'evoluzione tecnologica nella nostra società, riguardanti in particolar modo appunto i robot. Le questioni etiche che possono uscire quando, che si possono proporre quando i robot diventeranno parte integrante della nostra società, sono numerose. Le più semplici sono quelle legate per esempio a veicoli autonomi che possiamo pensare agire nelle nostre strade, nelle nostre piazze. Cosa può succedere se uno di questi agenti autonomi fa accadere un incidente? Questo è per esempio il più semplice degli esempi che può far capire quali conseguenze legali. Per esempio, bisognerà pensare a una scatola nera all'interno del robot, bisognerà pensare a un'assicurazione per le macchine, per le aziende produttrici, per gli utenti di questi oggetti. Poi la questione diventa ancora più complessa, più complessi sono gli ambienti in cui questi oggetti, questi robot andranno a muoversi e andranno ad agire, a interagire con altri esseri umani e con altre macchine. Per esempio nell'assistenza c'è un settore della robotica come che viene identificata col social robots, quindi robot che devono interagire con esseri umani per assistere anziani. Questo è un futuro che possiamo già descrivere: fra 20-30 anni avremo robot che potranno interagire con persone negli ospedali, con anziani nelle case, che interagiranno fortemente con l'utente. E quindi questa interazione provocherà una reazione da parte della società, degli esseri umani, e dovremo riuscire a capire, a progettare questi robot affinché l'interazione che si andrà a sviluppare, la relazione che si creerà, sia la più sana possibile. La roboetica vuol far sì che la robotica riesca a sviluppare relazioni non pericolose fra umani e robot. Quindi è un problema che ci si pone a livello di costruzione, proprio di progettazione dell'oggetto. Quali sono le soluzioni che si stanno trovando? È una difficile discussione sia a livello di progettazione che a livello teorico, perché la progettazione di questi oggetti richiede il coinvolgimento di squadre non solo fatte da ingegneri ma di team interdisciplinari, per cui una delle prime soluzioni è quella di coinvolgere designer, filosofi, sociologi alla progettazione di prodotti che invece vengono sempre intesi come di dominio solo ingegneristico, solo tecnico, e invece per avere successo dovranno essere risultato un po' come il risultato di collaborazione di varie discipline. Ci sono dei problemi anche legati più specificamente sui problemi giuridici dei robot umanoidi? Per esempio, immagino che affidare un anziano piuttosto che un bambino ad una macchina possa comportare poi dei problemi, delle conseguenze. Certo, affidare per esempio la relazione fra uomo-macchina a un robot che ha parvenza umana può essere estremamente pericoloso, perché si va a falsare questa relazione che si viene a creare, e si può notare proprio nelle diversi approcci culturali alla progettazione di robot diverse tipologie di soluzione. Per esempio in Giappone non si ha grandi difficoltà a relazionarsi alla macchina e a pensare che la macchina possa assomigliare all'essere umano, per cui ci sono questi gemminoidi che vengono progettati da varie università giapponesi che hanno parvenze realmente umane. In Occidente invece c'è una grande difficoltà ad accettare di relazionarsi con una macchina con parvenze umane, anche perché si rischia proprio di ingannare l'utente. Per esempio ci sono dei ricercatori che hanno proposto che i robot che vanno a interagire fortemente con anziani e con bambini siano estremamente riconoscibili come macchine e non come qualcosa che invece possa assomigliare a qualcosa di vivente. Allora, questa è la proposta della roboetica, una delle proposte, vediamo che la discussione è ancora in corso in Europa, a differenza che in Giappone i robot devono assomigliare a delle macchine per evitare di sfasare quella che è invece la relazione anche con magari gli anziani o i bambini con cui la macchina viene affidata. Ma noi adesso ci spostiamo a Pisa e andiamo a vedere un progetto in realtà di tutt'altro tipo. Sì, sembra un progetto abbastanza controtendenza, no? Perché è un progetto che si chiama FACE, che sta per Facial Automaton for Conveying Emotions, spero che la pronuncia sia corretta, ma che vuol dire sostanzialmente un automa facciale per trasmettere emozioni. Che sembra proprio, allora, è un progetto europeo, trasmette emozioni, è un robot, ma di cosa stiamo parlando? Allora, ne parliamo con Nicole Lazzari, che è una delle ricercatrici che ha collaborato alla realizzazione di questo progetto e che è in linea con noi. Buongiorno Nicole. Buongiorno a voi. Allora, cominciamo proprio dall'inizio. Che cos'è FACE? Di cosa si tratta? Allora, FACE, come appunto diceva anche dall'acronimo, è un sistema facciale per esprimere emozioni. In particolare ha un corpo statico, quindi un corpo di manichino dal collo fino ai piedi, in posizione seduta, mentre invece il viso è costituito da un cranio artificiale, quindi riprodotto proprio sulla base di una TAC di una persona, rivestito da un particolare silicone che lo rende molto simile alla pelle umana, sia come consistenza sia come colore. All'interno di questo cranio artificiale sono stati posizionati dei motori, seguendo, diciamo, mappandoli sui principali muscoli facciali del sistema umano, e questo fa sì che il nostro robot riesca a riprodurre espressioni facciali. Dal punto di vista estetico, appunto, è praticamente, diciamo, assomiglia a una persona umana, quindi anche vedendola in foto magari con accanto altre persone potrebbe essere scambiato per una persona. Quindi ci sono due aspetti principali, la parte estetica e la parte diciamo funzionale, ecco. Dal punto di vista estetico, appunto, cerchiamo di renderla più realistica possibile, quindi già il fatto appunto della sua forma, il corpo ovviamente la rende robot, ma abbiamo intenzione appunto di sostituire alcune parti del corpo, quelle più visibili, diciamo, come le mani o i piedi, e renderle uniformi alla pelle del viso. Ma qual è la finalità di un robot così simile agli esseri umani? Allora, questo progetto è nato circa nel 2002-2003. Io mi sono inserita all'interno del progetto solo nel 2008. È nato, diciamo, con l'intento di creare un sistema facciale che potesse simulare le espressioni umane e potesse poi essere utilizzato per studiare le dinamiche dell'interazione sociale. Quindi poi viene utilizzato per motivi di studio, ma non direttamente nell'interazione? Sì, diciamo che l'applicazione poi finale è quella dell'interazione sociale. Quindi è una ricerca orientata comunque a renderlo adatto ad interagire con altre persone. Per esempio, in quali casi? Per l'applicazione, come ve la immaginate? In passato, per esempio, è stato utilizzato all'interno di un progetto in collaborazione con l'Istituto di Neuropsichiatria Infantile dello Stella Maris, in cui l'interazione avveniva con bambini di controllo e bambini autistici. Quindi aiutarli a interpretare e a riconoscere espressioni facciali, dal momento che generalmente noi umani, quando facciamo un'espressione facciale, non è sempre così ben definita, magari ha delle sfaccettature o delle sfumature che la rendono abbastanza difficile da riconoscere, mentre invece un'espressione per un robot è abbastanza ben definita, quindi possiamo per esempio fare una felicità o una tristezza molto ben definita e chiaramente identificabile. E questo appunto è stato un esempio di uso all'interno dell'ambito clinico, ma stiamo facendo invece una ricerca al di fuori dell'ambito clinico per applicare, diciamo, rendere questo robot capace di interagire con le altre persone, quindi sia a livello di espressioni facciali, sia a livello di comportamento, quindi movimento di collo e occhi durante un'interazione. Grazie mille a Nicole Lazzari del progetto Face di Pisa, una buona giornata. Grazie, volevo solo ringraziare il professor De Rossi e l'ingegner Daniele Mazzai, che è il capo tecnico del nostro team, e gli ingegneri Zarati e Pieroni. Grazie anche da parte nostra e buona giornata. Grazie a te. E allora abbiamo sentito appunto i robot che riescono a ricreare le espressioni addirittura meglio degli esseri umani, più precise. Più precise, perché insomma non si vorrebbe mai che uno pensasse che è una felicità non proprio piena quella che stai mostrando sul volto, invece il robot è preciso, è al 100% felice, insomma. Ma il robot è preciso nelle emozioni anche quando è depresso? Secondo me sì, cioè una depressione professionale praticamente, insomma, fino in fondo. Allora, sentiamo proprio un robot che ha fatto della depressione la sua professionalità. Oddio. Marvin! È meglio che sappiate che mi sento molto depresso. Beh, abbiamo qualcosa che ti terrà la mente impegnata. Non funzionerà. Ho una mente incredibilmente vasta. Sì, lo so, ma... Vogliamo che tu scenda nel compartimento d'ingresso numero 2 a prendere i clandestini e ce li porti qui. E basta. Non mi piacerà. Sì, è la vita. La vita. Non venitemi a parlare della vita. Non venitemi a parlare della vita, a me che sono un robot. A me che sono un robot, però devo dire che questa cosa della mente troppo vasta a volte lo dico anch'io, non è che magari sono un robot, chi lo sa. Questa scena è molto inquietante, attenzione perché la regia è piccola, io potrei cominciare a aver paura, ma prima di tornare, perché ci parlerà di nuovo nella nostra intervista Emanuele Micheli, questa volta per parlare di scuola di robotica, io vi faccio sentire un'altra voce di robot, questa volta invece un robot molto vitale. Ehi, sai che vai forte? Sei grande! Oh, davvero? Grazie. Ok, spegni la TV, è ora di andare a dormire. No, andiamo Stefani, la vita è bella, facciamo 4 salti. Ehi! Sì. Senti un po', dimmi. Sono già le 3 del mattino. È presto. Ehi, abbastanza, judo, pattinaggio, cartoni animati, i 3 Stunks. Dacci un taglio, che ne dici? Oh, i 3 Stunks mi fanno morire. Sai una cosa, tu non balli per niente male. Ho la febbre tutte le sere. Casa di Stefani, casa di numero 5. Oh, numero 5, tu non sai quello che dici. Numero 5 sa quello che dice. Eh sì, numero 5 sa quello che dice, lui ha la febbre tutte le sere, non solo sabato. E chi non vorrebbe avere la febbre tutte le sere a casa di Stefani, diciamoci la verità. A casa di Stefani, infatti. E tra l'altro numero 5, ricordiamo questo robot che fa parte del film, serie televisiva, diciamo, Cortocircuito, è un po' un precursore di Wall-E, diciamolo. Con i cingolati anche lui, evidentemente qualcosa è stato scoppiazzato. Ma probabilmente era la moda anni 80, evidentemente, che aveva questo cingolato. Sarà anche la moda anche per i robot, no? Verranno fatti cingolati o con le gambe a seconda della moda del momento. È vero, infatti a differenza di Ivy, Wall-E è decisamente anni 80, gioca anche con il cubo di Rubik, infatti. E a proposito di robot e didattica, andiamo a vedere direttamente di nuovo dalla voce di Emanuele Micheli, quando invece il robot entra nelle scuole e fa la scuola di robotica. L'utilizzo della robotica all'interno delle scuole è un utilizzo non passivo da parte dei bambini. I bambini diventano creatori dei robot, per cui tutto il discorso della robotica educativa riguarda la possibilità di far costruire piccoli robot interattivi da bambini che vanno dai 5 fino ai ragazzi di 18 anni. Quindi, partendo da prodotti commerciali che si possono comprare, costruiamo delle vere e proprie macchine programmate, quindi i bambini non solo costruiscono l'oggetto meccanico, ma riescono anche a programmare l'oggetto e a prevederne le reazioni. Questa costruzione, ideazione, progettazione, assemblaggio del robot prevede la messa in moto di competenze disciplinari molto diverse l'una dall'altra, di intelligenze diverse, per cui i bambini devono collaborare per costruire un robot, devono mettere in moto conoscenze matematiche, scientifiche e tecnologiche, ma non solo. La costruzione dei robot consente ai bambini anche di occuparsi della relazione tra pari, effettivamente diventare uno strumento didattico con grandi potenzialità per consentirci di migliorare il mondo della scuola. È qualcosa che ha a che fare anche con la consapevolezza e l'utilizzo delle tecnologie, penso, a differenza invece magari a prodotti commerciali chiusi in cui è difficile magari intervenire a capire anche cosa ci sta dietro. Assolutamente sì, riuscire a portare strumenti innovativi dal punto di vista tecnologico all'interno della scuola può consentire ai bambini di aumentare la consapevolezza sul funzionamento di questi oggetti stessi. È un po' quello che è mancato con la grande rivoluzione che Internet ha portato alla nostra società. Non c'è stata una risposta da parte della scuola così reattiva all'innovazione Internet, per cui oggi abbiamo tantissimi utenti, anche in età adulta, che non sono consapevoli dell'utilizzo di questo strumento, che ovviamente ha grandissime potenzialità, ma come tutti gli strumenti con grandi potenzialità può racchiudere dei pericoli, soprattutto quando l'utente non comprende il funzionamento che c'è dietro allo strumento. Quello che facciamo con la costruzione di questi robot è consentire ai bambini di capire la filosofia che c'è dietro, e quindi quando un giorno fra 15 anni questi ragazzi interagiranno con i robot nel mondo del lavoro, potranno capire il procedimento e la progettazione che c'è dietro questi robot, e quindi potranno difendersi, perché quando pensiamo a robot che interattivi nelle nostre case, che girano per le nostre case, possiamo pensare ad agenti che prendono informazioni sulla nostra vita, e ancora di più di quello che sta già succedendo con Internet potremmo pensare ad aziende che utilizzano questi dati a fini commerciali. È giusto che l'utente ne sia consapevole, poi potrà scegliere se lasciare questi dati oppure poterli preservare. Imparare come funziona la tecnologia anche per difendersi fin da piccoli, e credo che questa sia la risposta anche al messaggio che ci arriva al 348-76-49-289 di un ascoltatore che invece è preoccupato di questa direzione verso un aumento della tecnologia, e ci dice: queste sono follie affascinanti e utili su un piano scientifico, ma pericolose su un piano sociale. Non siamo ancora riusciti a armonizzare la grezza tecnologia che maneggiamo ogni giorno con l'ambiente, le risorse limitate disponibili coi nostri reali bisogni umani, e che facciamo i robot domestici una follia. Vediamo effettivamente se la direzione è quella. È importante anche saperla maneggiare, questo è anche l'obiettivo di Pensatech, che sentite ovviamente ogni venerdì alle 9 su queste frequenze, ma anche direi in replica alle 6:30 di giovedì. E tra l'altro l'ambiguità della rete è l'argomento anche di un appuntamento che c'è in questi giorni a Bologna, si chiama La Rete Contesa, è un ciclo di conferenze organizzata dal centro La Soffitta. Il primo incontro c'è già stato martedì 12 marzo, il prossimo è il prossimo martedì, che è il 19 marzo, sempre alle 17 in Salone Marescotti in via Barberia 4, ingresso ovviamente libero, e il prossimo martedì si parlerà di politica della rete e politica nella rete, l'incontro con Carlo Formenti dell'Università di Lecce e Christian Vaccari invece dell'Università di Bologna. Sono le 9:29 minuti, anzi quasi 30, quindi noi dobbiamo salutare tutti i nostri ascoltatori, ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.